avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe. Domani c'è caso che possiamo parlare del tourbillon de la vie. Mi piace l'argomento, mi piace l'idea, poi ormai è una settimana che sentite questa sigla, vi sarà un po' entrata nelle orecchie. Cominciate a chiedervi cosa significhi, quali siano le parole, quale sia il senso, quale sia questa sorta di ineffabile piacere, tormento di ciò che ci sfugge, ciò che inseguiamo, ciò che ogni tanto incontriamo, incrociamo, riprendiamo, rilasciamo, ci mandiamo perché lo lasciamo, perché non stiamo sempre accanto a ciò che ci dà piacere, ma il piacere è dato proprio dalla distanza, è dato dalla sottrazione. Invece questa mattina parlerò di qualcosa che a me non ha mai dato molto piacere, parlerò di politica. Molto spesso sono accusato di disimpegno, di qualunquismo, perché non prendo mai posizioni politiche. Non trovo posizioni divertenti nella politica, non trovo posizioni che mi diano appunto fascinazione e piacere. Mi piace osservare quello che oggi è il corteggiamento generale che si fa degli uomini politici, corteggiamento in quanto onnipresenza e ogni possibilità di intervento in tutti i campi dello scibile. I politici sono corteggiati come se fossero cocotte, come se fossero tutti importanti divi, ma allo stesso tempo c'è un grande ritegno, c'è una grande attenzione, una grande riverenza data anche dall'insulto, data anche dalla veemenza nei confronti della politica. C'è una sacralizzazione della politica che in realtà ha abbastanza sclerotizzato l'idea assoluta dell'uomo politico. Da una parte vediamo il politico in vacanza in pantaloncini che si esprime su ogni possibilità di giudizio su fenomeni sociali, su filosofie, su visioni della vita, su trascendenze, su immanentismi e via dicendo. D'altra parte vediamo uno spettro larghissimo di uomini politici, dall'austerità impugnata, dall'oltraggio ad ogni costumatezza, ai politici in gonnella, alle politiche, agli accuse sono state fatte in questi giorni, ci sono politici che hanno sono lasciati estirpare dichiarazioni sulla facilità dell'intima d'azione da parte di parlamentari di sesso femminile, e questo ha fatto insorgere comunque la parte proba del Parlamento e via dicendo. Ultimo episodio, la necessità di avere un pubblico non ideologicamente partecipante ai talk show in cui ci sono i politici. Se c'è presente l'uomo politico come se fosse un sancta sanctorum, deve esserci una sorta di recinto che isola i comuni mortali dal politico e si produce nella sua massima divinità. E quindi nei talk show Rai è stato sancito che il pubblico non deve partecipare, che dovranno essere soltanto vecchietti presi dall'ospizio, messi lì con la flebo nella vena, che non si rendono bene conto di quello che stanno facendo, oppure si ricorrerà a un pubblico di avatar virtualmente ricostruito, ancora meno partecipante. Beh, invece noi, come spesso abbiamo già dimostrato, esiste una lettura trasversale, impietosa, concreta, realistica, attenta a tutte le sfumature della classe politica italiana, ma anche dalla Prima Repubblica, dagli albori della Prima Repubblica, fino quasi ai nostri giorni. E questa è data appunto dal cinema. Il cinema, perlomeno fino a un certo periodo, come noi abbiamo visto tutto l'anno passato assieme a Giuseppe Sanzon, che ho questa mattina in studio, buongiorno Giuseppe. Buongiorno. È stato il non sufficientemente valutato occhio attento e impietoso su tutti gli aspetti più spinosi della nostra storia patria. E io, che in realtà della politica non ho mai avuto nessuna affezione, anche se in un periodo, in una fase professionale, ho anche condotto le tribune politiche, fu l'inizio del tracollo della mia fulgida carriera, devo dire che questa mattina mi piacerà vedere come attraverso il cinema è stata vista la classe politica italiana, in maniera molto più cruenta, in maniera molto più impietosa, in maniera molto più coraggiosa di quanto l'abbia fatto mai nessun coraggioso conduttore televisivo. Dice Sant'Ignazio che per meglio vincere ogni disordinato appetito, se si è tentati di mangiare in eccesso, si dovrà digiunare. Ebbene, amici, io digiunerò. Voltrano, che hai voluto dire? Quello che ho detto. Ti conosciamo. Tu alludi ad altri modi di mangiare. No, infatti io digiuno, seguendo il consiglio del santo. Perché non digiuri anche tu e tutta la tua corrente? Perché non digiuniamo tutti? Che ci farebbe anche bene. Non abbiamo forse mangiato abbastanza ieri, l'altro ieri? Continueremo a mangiare sicuterat in principio et nunc? Allora, questo discorso estrapolato dal contesto, ammesso e non concesso dalla traduttorietà del riferimento, che ancora non abbiate capito di cosa stavamo parlando, potrebbe essere applicato ad ogni epoca politica, dagli albori dell'impero romano fino al 2012, anno della fine del mondo. Di cosa stiamo parlando, Giuseppe? Stiamo parlando di Todo Modo di Elio Petri, film del 75, e questa era la voce di Ciccio Ingrassia sottratto al primo paradosso, attore comico che recita la parte del politico democristiano che osa fare la morale ai suoi colleghi di partito in un grande ritiro spirituale. Sì, il ritiro spirituale è questo albergo Zafer tratto dal mondo sciasciano, si sono riuniti tutti questi democristiani in questa atmosfera quaresimale, cupa, funebre, come era specifico della Democrazia Cristiana, e c'è un Ciccio Ingrassia che sembra Nosferatu con le sue mani lunghissime, senza baffi, questi capelli da topo ravviati all'indietro, quindi questo aspetto inquietante viene utilizzato da Petri per mettere in bocca questa filippica moraleggiante un po' sugli eccessi gastronomici della Democrazia Cristiana. Lui era il primo ad aver avuto degli eccessi, infatti si fustigava, aveva il cilicio perché aveva avuto un cedimento carnale nella sua carriera, e quindi a questo la sua colpa. Già allora il cilicio appunto rientrava, una profezia insomma binettiana di quanto il cilicio fosse legato insomma alla dimensione politica. E poi c'è soprattutto centrale in questo film la presenza di profetica di un Moro Volonté 2 anni prima che venga ucciso. Cioè un Moro che Elio Petri raccontava che quando Volonté diventò Moro, che Volonté diventava l'attore, era diventava il personaggio che interpretava, era inquietante, era nauseante perché era perfetto, era un ultranoschese, quindi c'era le cineserie, le modalità di approccio, tutta quella sorta di riti cristallizzati in un mondo a parte, un mondo autoreferenziale che era quello della politica, che spesso si sgancia completamente dal mondo concreto, reale, e erano inquietanti perché erano una perfetta identificazione col personaggio reale, quindi c'era questa sorta di eccesso. Fu un film che ebbe dei problemi proprio questa profetica verosimiglianza con il personaggio di Moro. Poi c'è una figura che per i tempi era considerata scandalosa, di un sacerdote, direttore di questi esercizi spirituali, rigidissimo direttore, che è un meraviglioso Mastroianni, che in realtà poi, tanto è data la notorietà del caso, non facciamo nessuno spoiler, è in realtà lui l'assassino, è quello che uno dopo l'altro eliminava per una sorta di suo malversato senso di giustizia e di catarsi tutti gli uomini politici. Sì, cercano di autopurificarsi, fuori impazza un'epidemia secondo il romanzo di Sciascia, e loro appunto si riuniscono, cercano di purificarsi con questi esercizi da gesuiti, però poi appunto la falce del prete si abbatterà su di loro. È un film anche sbilenco, un po' eccessivo, espressionista, portato ai limiti, parte appunto da personaggi concreti e deborda, però è un film che ha una sua virulenza, è anticipato poi altri film che sarebbero venuti dopo. Allora, 8-0024-0024, come riuscireste a riassumere a brevi tratti, se possibile ironici, se possibile non convenzionali, il ritratto della classe politica italiana, dagli albori ai giorni nostri, senza cadere nei soliti luoghi comuni, nelle solite piove, governo ladro, ma avete una maniera e dei riferimenti, soprattutto tratti dal cinema, in cui trovate pennellata bene, nelle sue ma anche nei suoi splendori, ce ne saranno senz'altro, la classe politica che ci rappresenta. Basta, mi rifiuto di mangiare con ladri come voi. Cosa dici? Ladro sarai tu! Tu ladro, ladro di banane. Ladro di francobolli. Sì, ladri, ladri. Ridono, ridono. Prima rubano e poi vengono qui a ridere alle spalle del popolo di Dio. Piangete. All'espiazione non si può sfuggire, avranno quello che si meritano. Ecco, qui c'è un'altra accezione. Il piove governo ladro è stata sempre una sorta di popolare invettiva nei confronti di chi comandasse, di qualunque segno, di qualunque colore. Questa è una trasmissione laica nella sua impersonalità, non perché non voglia prendere posizione, perché mi piace giocare e baloccarmi con il luogo comune. Anche perché nel luogo comune esistono comunque delle tracce indelebili di verità. era molto legata, siamo ancora in epoca fortemente pre-Tangentopoli, però esisteva quest'idea che comunque la classe politica era una classe di approfittatori, quindi il ladrocinio era considerata la più importante e la più detestabile delle abiezioni, anche perché tutte le abiezioni che poi da lì in poi verranno fuori, attribuite giustamente, a torto, a ragione, alla classe politica, ancora erano nascoste, erano in nuce. Infatti il peccato di concupiscenza carnale, che è una delle più feroci bandiere che oggi vengono impugnate nei confronti dei politici, la debolezza della carne, allora era vista come qualcosa che comunque apparteneva sì all'uomo politico in quanto essere umano, ma totalmente nascosta, non creava indignazione. E siamo esattamente in epoca pre-spettacolare, quindi non tutto filtra e deborda nel tubo catodico, anzi questa dimensione claustrale da monastero in cui la democrazia... Corrispondeva ancora alla tribuna degli Iader Jacobelli, quanto di più algido, perfetto, aulico e bilanciato potesse esserci. Sì, erano irreali, non si sapeva nulla del loro quotidiano, non si intuiva, si vociferava, si poteva appunto lanciare invettive, ma... tutto avveniva in reali monasteri in cui poi la democrazia cristiana risolveva e altri gruppi di potere risolvevano le loro lotte intestine, quindi c'era un fuoriscena, un obsceno, c'era, tutto era chiuso, non era tutto evidente, oggi è tutto iperspettacolarizzato, iperevidente e accecante allo stesso tempo. Silvia, buongiorno, prima ascoltatrice. Buongiorno, senta, quando all'inizio ha detto che non mi ricordo se ha detto che le viene la nausea quando parla di politica, ecco, le dico velocemente che io mi sono messa in politica proprio solo per passione e nella mia piccola esperienza personale, già in un consiglio di quartiere, ho fatto parte per 5 anni di un consiglio di quartiere, uno di quegli sprechi che ti viene veramente da non credere, già in un consiglio di quartiere. Io sono nauseata, adesso vedo che parlano, sento che parlano di politica, io cambio, perché veramente, guardi, ha perfettamente ragione. E anche la persona più... Beh, diciamo, signora, è facile... farsi dar ragione, anche Beppe Grillo raduna le folle dicendo andate tutti a quel paese in maniera molto più concreta. Certo. No, è facile qualunquismo, io non sto dalla parte degli arrabbiati, non sto dalla parte di nessuno, sto dalla parte di me stesso, osservo, guardo, suscito, provoco, mi piace quello che dice lei, anche se è banalissimo, ho visto tante ruberie e tanti sprechi, quindi non voglio più sentire parlare di politica, facile dirlo, come quelli che dicono non guardo la televisione perché mi fa schifo, non leggo i giornali tanto sono tutti venduti, lei non parli tanto so che comunque ha un padrone. Sì, va anche bene, accetto anche questo punto di vista, però non porta da nessuna parte. Ogni tanto sporcarsi le scarpine con il fango che si trova per strada forse dà un senso maggiore al proprio esistere. Claudio. Ma ben gentile Nicoletti, direi di proporre... No, ma posso anche andare oltre, tranquillo. No, ma abbassi la radio che sennò c'è questo tremolio metallico. Una visione diversa, cioè finalmente siamo arrivati al politico ginnico. Mi segue? Beh, il politico ginnico ce l'avevamo anche una cinquantina d'anni fa, saltava nel cerchio di fuoco. Ma veda l'evoluzione dal politico ginnico bellico, perché certe posizioni sessuali, come insegna la Samandi cinese, sono di difficile realizzazione, rivolgendosi alla discussione sul sesso degli onorevoli. Sì, però andiamo per ipotesi, non ci sono prove tangibili, diciamo, di accoppiamenti. Ci portano quasi alla realtà, la realtà supera sempre la fantasia. Ecco, però lei ha toccato un punto. Secondo lei l'immaginario comune, l'immaginario popolare, quando immagina gli uomini, quando pensa agli uomini politici, anche in quella particolare fattispecie, dà loro una valenza umana finalmente, o anche in quello li considera come una sorta di dei dotati di poteri eccezionali? Beh, diciamo che considerando i presupposti potremmo considerare, cioè, forse la tendenza a considerarli tutti dei volgari pervertiti, ma questa è una banalità. Perché la sì, è banale, è perché diciamo la verità, chi avesse potere, denaro e notorietà, cosa farebbe di diverso? Oh, ma quello, quindi dobbiamo accettare, ma quello che è interessante è la sottolineatura ginnica, cioè siamo passati dal salto nel cerchio di fuoco per puri spiriti bellici all'amore, dai su, c'è un netto miglioramento nella classe politica italiana. Questo va accettato, fa parte. Sì, però loro non lo accettano. Diciamo che oggi il politico e le sue attività scollacciate sono stato l'argomento. Ormai c'è una sorta di linea di confine molto poco definita. tra la stampa scandalistica e la stampa ufficiale, e i resoconti politici. Abbiamo avuto episodi boccacceschi a Iosa di politici cocanizzati, impazziti, pluriaccoppiati, poliposseduti e via dicendo. Abbiamo avuto di tutto. Non sappiamo più nemmeno dove collocare le nostre fantasie più perverse nei confronti della classe politica. Allora era molto semplice. Ciccio Ingrassia si capiva, non si intuiva, non sapeva cosa avesse fatto, stava lì macerato in una cella e si frustava. Pensi un po', e uno poteva immaginare tutto. Oggi sappiamo tutto quale può essere la pena che si autoinfliggono i politici. Alessandro. Alessandro? Eccolo. Sono io, Alessandro Manselli, buongiorno, come va? Beh, non so, mi dica bene. No, io desideravo fare una sorta di parallelismo con questa, in questa conversazione simpatica. Per me la legge che appunto i parlamentari dovrebbero come prodotto finito produrre ricalca un pochino quello che è il capitale terra lavoro, dove capitalisti sono appunto... Non ci sto, guardi, no Alessandro, non è che la voglio censurare, non sto capendo cosa sta dicendo. No, guardi, allora o interviene concretamente l'argomento, se no la seguo, non c'è alternativa, non c'è democrazia. No, vabbè, alternativa, se lei non mi dà la possibilità, forse probabilmente... Non capisco cosa sta dicendo, se non capisco... Io dico, a proposito dei parlamentari, della sì. politica, no, lei mi parlava di politica, no, sì. La politica per me produce leggi sì. che potrebbero essere, facendo una sorta di parallelismo con il prodotto finito di un'industria, appunto il prodotto finito, la sì. legge è il prodotto finito della politica. È giusto, questo è giusto, sì. Non so se sì. mi sto spiegando bene. Però se non lei... è divertente. Bene, allora i politici come capitalisti, perché sono nella produzione del prodotto finito, cioè il capitalista... Sì, ma è una lettura antiquata però, un po' non ho capito, mi perdoni? È una lettura un po' antiquata. Se non le piace la lettura, tronchiamo la conversazione. La faccenda che per me il prodotto finito è appunto la legge, il capitalista deve per forza come politico... Vabbè, guardi, senta, mi scusi, non è vorrei sembra... Sì, ma no, che rappresenta il lavoro... E quindi ecco, vabbè, anche non le va. No, non le va, che è confuso, lisergico e allo stesso tempo dogmatico. Quindi, ahimè, abbiamo una radicale maniera per passare ad altro argomento. Si è autospento, va bene, meglio così. Andiamo avanti allora con il prossimo esempio tratto finalmente dalla storia del cinema italiano, che legge la politica in maniera altrettanto profonda, ma molto più divertente. Livia, sono gli occhi tuoi pieni che mi hanno folgorato un pomeriggio andato al cimitero del Verano. Si passeggiava e uscissi quel luogo singolare per chiederti in sposa, ti ricordi? Sì, lo so, ti ricordi, gli occhi tuoi pieni e puliti e incantati non sapevano, non sanno e non sapranno, non hanno idea. Non hanno idea delle malefatte che il potere deve commettere per assicurare il benessere e lo sviluppo del paese. Per troppi anni il potere sono stato io, la mostruosa, inconfessabile contraddizione, perpetuare il male per garantire il bene. La contraddizione mostruosa che fa di me un uomo cinico e indecifrabile anche per te. Gli occhi tuoi pieni e puliti e incantati non sanno la responsabilità. La responsabilità diretta o indiretta per tutte le stragi avvenute in Italia dal 1969 al 1984 e che hanno avuto per la precisione 236 morti e 817 feriti. A tutti i familiari delle vittime io dico sì, confesso. Confesso, è stato anche per mia colpa, per mia grandissima colpa. Questo dico anche se non serve. Lo stragismo per destabilizzare... Giuseppe Sansonda, molto velocemente, poi passiamo la linea all'informazione della borsa. Qua abbiamo fatto un salto temporale enorme, ma siamo nello stesso contesto. Sono le stesse persone, in todo modo. Esattamente. Il Divo, film di Sorrentino, Servillo nei panni del più oscuro, misterioso, enigmatico statista italiano, Giulio Andreotti. E qui si sceglie una strada completamente opposta rispetto a quella di Todomodo, cioè di Volonté. Non c'è la mimesi, non c'è l'imitazione, ma c'è la ricreazione di un personaggio. Gli viene sottratta la voce da nonno romano al vero Andreotti, che lui con la sua voce rassicurante disdice la figura da Nosferatu che ha fisicamente. Qui gli viene data questa voce da Riccardo III di Carmelo Bene, che... flauta una sorta di confessione faustiana in cui lui ha perpetuato il male per fare il bene. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. A che ora ti sei svegliato, Giulio? Alle 4:30. La Pira si svegliava alle 3:30. La Pira era un santo, io sono un peccatore. Quante volte, Giulio? Da oggi 7. 7 volte presidente del Consiglio, 25 volte ministro. Mai avuto un parrocchiano così illustre? Siamo tutti illustri davanti a Dio. Montanelli diceva, De Gasperi e Andreotti andavano insieme a messa e tutti credevano che facessero la stessa cosa. Ma non era così. In chiesa De Gasperi parlava con Dio, Andreotti con il prete. I preti votano, Dio no. 800 24 00 24, oggi stiamo cercando di vedere, è uno sguardo laterale, uno sguardo oggi anche considerato poco importante, anche se il film Il Dio ha suscitato qualche piccola, lieve, impercettibile polemica. Poi ormai Giulio Andreotti è un politico che non inquieta più, se non le ultime dichiarazioni, quando ha detto che Giorgio Ambrosoli se l'era cercata, poi ha subito smentito. Però siamo a livello di battute da Klaus Condicio, quelle battute che quasi prese, estrapolate, diventano notizia in carenza di notizie più importanti. Però in realtà questo clima che ormai è un sapore di storia passata. La politica come esercizio consumato nelle sagrestie, oggi probabilmente nelle sagrestie si fa altrettanto politica, ma è qualcosa di diverso, è qualcosa che ha tinte diverse, sapori diversi. Il cinema però ha avuto gioco facile a rappresentarla in questa maniera. Sì, oggi la politica, come tutto, è sotto i riflettori violenti televisivi. Qui siamo sempre in questa scena che abbiamo ascoltato, in un'atmosfera claustrale che lascia emergere l'aspetto di Andreotti, quel senso della battuta effetto che viene spacciata spesso per grande intelligenza, ma nel Divo stesso si dice che in fondo è solo un puro senso della battuta continuo e estenuato. Diciamo che in questa chiesa c'è questo prete che sta annunciando il momento in cui prima del settimo governo Andreotti si stanzierà di nuovo Andreotti, ma poi perderà la sua carica e quindi comincerà il processo per mafia. Il fatto su San Bresoli, c'è quella battuta celebre di Beppe Grillo che diceva che Andreotti ha una scatola nera nella gobba, quando morirà si aprirà questa scatola nera, e forse la battuta San Brosoli è tratta da questa prima apertura della scatola nera, chissà. Però ti rendi conto quanto sia datato e segnato e poco percettibile soprattutto alle nuove generazioni quello che stiamo dicendo, qualcosa come appartiene a un passato, è come parlare delle strategie napoleoniche, qualcosa che sembra che non ci tocchi più. Federico. Sì, buongiorno. Ecco. Buongiorno a tutti. Il mio intervento è molto semplice. Io sono dell'opinione che la classe politica è uno specchio della società. No, davvero? Sì. Come ci è arrivato? D'accordo? No, no, no, sono sorpreso dalla originalità di questa lettura. Ah, meno male. Quindi io dico che noi abbiamo una classe politica che ci meritiamo, che ci meritiamo di M puntini puntini, perché siamo una società di M puntini puntini. Ah, bene. Non c'è niente da tirarsi indietro. Io sono rimasto, guardi, molto stupito ultimamente all'ultimo cinema di Venezia della butade di Michele Placido, di cui abbiamo dedicato un'intera puntata su Vallanzasca. Se porti pazienza, io non la seguo tutti i giorni. Sì, sì, va detto, i politici sono tutti... Ho cose da fare, però quando ho poco da fare la seguo... Beh, non è che siano più importanti le sue cose che ascoltarci, eh? Sì, ecco, meno male. Michele Placido ha detto che i delinquenti stanno dentro nel Parlamento. Sì. Questo, guardi, io ho profondo rispetto per le istituzioni. Io mi meraviglio come mai non c'è stato un onorevole, un senatore che abbia denunciato per calunnia Michele Placido. Beh, perché sarebbe un'escusazione non petita, scusi, è come dire che ha fatto una puzza. Il primo a dirlo è stato lui, e non si fa. Allora, andiamo avanti. Mauro. Sì, buongiorno. Ma innanzitutto una battuta sulla questione del populismo tanto vituperato. Secondo me è implicito nella politica. Il populismo deve essere all'interno della politica. Si tratta solo di capire se il populismo è visto come fine o è visto come mezzo. Ecco, però vede, tutte le volte che si aprono i microfoni e la gente parla di politica, si sconfina, si affoga e ci si deve destreggiare per sopravvivere nel più bieco e nel più terrificante luogo comune. Perché invece attraverso il cinema si riesce a trovare questa arguzia, invece, per raccontare le cose con un segno diverso? Perché nessuno di voi riesce a fare un salto creativo e fantasioso per dire qualcosa che non sia banale? I politici sono tutti ladri, sono tutti delinquenti, queste autocommiserazioni, noi siamo gentaccia e i politici sono gentaccia, che lo siamo noi. Ma parli per lei, scusi, io non mi sento gentaccia. Onorevole Carissimo, ma cosa sta succedendo? Insigne professore, e niente, che succede? Che stasera stiamo a bocca asciutta. Ci ha avvisato la polizia, quindi ci ha detto malissimo. Che disastro. Onorevole, mi raccomando, bloccate quel disegno di legge, nell'individuare i clienti con le targhe sarebbe una tragedia atroce. Lei lo sa. Ma che sta si sa? Noi abbiamo già requisito 7-8 parlamentari, stanno con noi, faremo le barricate. Ostruzionismo fino alla morte, faremo. Ma anche quella baggianata di voler riaprire le case. Un altro quintuplo salto mortale, e ci troviamo i due onorevoli la sera e si trovano nella strada delle puttane, entrambi clienti, entrambi moralizzatori, entrambi grandi impugnatori della necessità di moralizzare i costumi, ma perfetti conoscitori. Verdone addirittura sceglierà la signorina, contatterà a lungo la tariffa, cercherà in qualche maniera di estorcere il prezzo minore, poi si metterà una mascherina nera perché sai, io sono un uomo noto, quindi tu accomodati, fai il tuo dovere, io mi copro la faccia. Sì, Verdone si sdoppia in due appunto in il questo dialogo. È... Grande Grosso e Verdone, che è una ripresa delle vecchie macchiette antropologicamente molto succose, molto significative. Infatti in questo onorevole che appunto farà un blocco in Parlamento per impedire la riapertura delle case chiuse, perché il fascino della strada, il fascino della scelta delle minorenni moldave è talmente forte che non si può recludere in una casa chiusa in cui non sai cosa ti piomberà addosso. Qui riprende anche un dettaglio molto interessante, che è quello dell'occhiale spesso vitreo, quella vetrosità democristiana, ma che anche lo stesso Tognazzi in tantissimi film riprende, cioè lo stesso Andreotti, questi occhiali che in realtà impediscono, è come se fossero un cristallo in cui si chiude la politica. Ti rendi conto che sono ormai personaggi che appartengono a una sorta di teatrino dei pupi, sì. come il presepe napoletano che mette i pupazzi, la cosa che a me appartiene, non esistono più queste cose. I pupi mi piace perché c'è l'inorganico, c'è la naftalina, c'è il mortuario che si trascinano dietro. Allora, facciamo invece un salto all'indietro, l'argomento è sempre lo stesso, il luogo comune che però viene artisticamente in maniera molto divertente confezionato è lo stesso, il politico moralizzatore nell'aspetto esteriore si trova invischiato in una terrificante vicenda che lo porterà, ahimè, a una spaventosa maniera di veder tracollare la sua immagine pubblica. I suoi cerchietti, signore. Ehi, signore, signore in basso. Senti, sei corolla o pistillo? Scusi, signor Nardi, per favore. Timidone caro, vienimo qui che ti presento un po' in giro. Questo intanto è Angelino. Sì, sì, tante grazie, ma io volevo soltanto incontrarmi con Nardi. La polizia, la polizia! Calma, calma, calma, ragazzo! Ecco qua è Tognazzi, che è un grande burocrate di Stato dedicato alla moralizzazione, alla censura, commissione censura. A un certo punto scopre che la sua tenera sposa, tra l'altro anche era sua cugina, altro fatto nascosto, in fase prematrimoniale aveva fatto delle pose in uno di quei film peplum leggermente sboccacciato, ha fatto la schiava danubiana, quindi tutta la sua vita, la sua esistenza è a togliere dal commercio ogni copia di questa schiava danubiana, quindi arriva addirittura a compiere commerci illeciti con paesi arabi, a cancellare tutto, quindi riesce a cancellare tutte le prove, manca solo il fotogramma della locandina in cui c'è la moglie con il seno scoperto. Andando sulle tracce del fotografo che ha fatto questo fotogramma, si trova invischiato in un festino gay, una cosa che negli anni 60 già era allucinata come una realtà. C'erano da una parte gli onorevoli, gli omaccioni amanti degli efebici ragazzetti, tutti in giacca, cravatta e grisaglia, e questi ragazzini con delle coroncine in testa che tirano dei cerchietti e gli onorevoli li prendono al volo con dei bastoncini. La cosa affascinante è che in quel periodo tutto veniva affidato alla rielaborazione immaginifica dei cineasti, quindi c'era anche un eccesso, questi efebi sono vestiti come Pan, c'è una sorta di barocca visionarietà. Oggi è tutto evidente, oggi è tutto anche piattamente, quotidianamente sbattuto dai media e dai giornali in maniera anche piatta. Però c'era un grande coraggio nel rappresentare queste cose. Io immagino i brividi di terrore e le sudarelle nelle grisaglie che realmente allora, come sempre è stata nella sua umanità, avranno frequentato quel tipo di festini. Li chiamavano i balletti viola, i balletti rosa, c'era sempre un colore di balletto, li chiamano balletti perché non si poteva dire l'ingroppamento come oggi molto più palesemente si dice. C'era un coraggio, l'industria cinematografica aveva appunto questi alfieri che facevano botteghino, e quindi davanti alla legge del botteghino si poteva dare libertà ai cineasti anche di creare, cioè qui appunto Antognazzi che riprende quel discorso di prima, ha questa voce nasale che disdice il suo stesso personaggio. Antognazzi prendeva le distanze dei suoi personaggi nasalizzando il suo tono, e questi occhiali spessi lo si vede sperduto in questa festa, e quindi viene trascinato, avvolto dalle spire. Sì, poi l'equivoco nasce divertente: lui stava alla stazione con le labbra screpolate dal freddo perché girava la settimana alla ricerca del fotogramma. La vecchia segretaria impietosita gli dà il suo burro cacao, dice: si metta questo, onorevole professore. Lui va nel negozio dell'amico del fotografo, si mette il burro cacao sulle labbra screpolate, subito l'altro individua una sorta di segnale segreto e lo infila nella festa dei pistilli e delle corolle. E si trova in una sorta di Eyes Wide Shut italico, un po' alla, a un Kubrick ad litteram. E quindi finisce sui giornali e finisce la sua carriera. Quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Certo, generale Olivazzi, tu dovresti conoscere, però, perché è un perito del ministero. Ah, sì. Beh, come dire, è una gran brava personcina, vero? Però adesso si è messo a verificare per conto suo il prezzo reale del terreno, vero? Capisci? Beh, nessuno gli può levare dalla testa che quei terreni valgono circa 10 volte di meno di quanto vengono pagati dal governo. E siccome lui minaccia entro oggi di presentare il suo dossier, vero, alla tua attenzione come presidente della commissione parlamentare, vero, sono venuto a pregarti. E lasciami finire. Hai già finito. E sturati per benino all'orecchie. Io sono deputato e ho delle responsabilità verso il Parlamento e verso il Paese. E oltretutto anche verso... Questa mattina abbiamo capito che per fare dei ritratti o dare delle letture che abbiano la genialità del graffio, che facciano veramente male o che siano rivelatrici della classe del potere, occorre una grande leggerezza, occorre esserne distaccati. La voce popolare, quando si esprime sul potere, si esprime sempre attraverso luoghi comuni, che sono peggio dell'ossequio più mieloso. Non c'è di peggio che impugnare il luogo comune del dissenso. Io trovo che sia una cosa di segno veramente infimo. Noi in questo momento lo stiamo sentendo invece. Questa era la giornata dell'onorevole, episodio dei mostri di Risi, con Antognazzi, che è onorevole democristiano, che ha questa nasalità toscana alla Fanfani e che quindi gli viene posto uno scandalo in atto, e lui ovviamente cerca di impugnare questa causa, di impedirla apparentemente. In realtà rinvierà tutto, farà in modo di non dover prendere una posizione su questo, e lo farà non con modalità brutali più odierne, ma con tutte queste cineserie appunto democristiane, questi rinvii, cioè cercare di eludere l'incontro con questo generale che sta per portargli questo dossier scottante. Ecco, questo è il fascino, è proprio questo, questa modalità tutta fatta di appunto sospensioni, di impegni presi, andrà a vedere un cartone animato di propaganda. Appunto, tu che guardi cinema con attenzione critica, ma soprattutto ne guardi tanto, non trovi che a un certo punto si è smesso di raccontare con questa leggerezza, con questo distacco che ti permette appunto dei crudelissimi affondi proprio perché ne sei sollevato la classe politica? Dunque, noi abbiamo citato Verdone prima, mi viene in mente il portaborse di Moretti, regista che non ha le mie più profonde simpatie, però è un film formidabile, soprattutto è stato fatto in epoca non sospetta. Immagazzina e congela una classe politica imparaticcia, non professionista, arraffazzonata, oggi molto percepibile, in epoca ancora era addirittura quasi pre-Tangentopoli anche quello lì, il portaborse era perfetto. Però non vedo altro, vedo poi la famosa satira politica, vedo le Guzzanti, vedo i Crozza, vedo tutto questo, che però ormai sono totalmente sclerotizzati nella rappresentazione monocratica dello stesso sistema. Secondo me questo è un dato essenziale, c'è un'iperrappresentazione della politica come di tutto, e quindi c'è anche un minor spazio per fare dei tratti fantasiosi. L'imitazione di questi politici già sovraesposti dai media crea un ulteriore effetto di ridondanza farraginoso, poco interessante. Forse interessante più cose che fa tipo Corrado Guzzanti, che magari invece di imitare... Che infatti è rarissimo, esatto. E centellina. Sì, Guzzanti sì. È favoloso, sì, però è centellina. Ti spiego, gioca di sponda, cioè non parla di Giuliano Ferrara, non fa l'imitazione di Giuliano Ferrara, o dice che è grasso, cose banali, che poco interessanti. Si inventa Don Pizzarro, cioè il prete, che si chiama come un giocatore della Roma, o come Navarro Valls, e che dice delle cose sulla Chiesa. E questa è la genialità, secondo me, lavorare di cesello, lavorare di sponda. Roberto da Padova, visto sono due Roberti. Buongiorno. Eccoci qua. Buona giornata. Pronto? Sì, la sto ascoltando con attenzione. Grazie, buona giornata. Allora, un fatto successo qui da qualche anno. Io vivo a Padova e un signore che fino all'altro ieri faceva il ragioniere commercialista, tutto un tratto entra nel mondo della politica, tra l'altro con questo signore si è giocato a calcio per anni e anni, diventa un politico, cominciano però ad arrivare... hanno a pieno diritto anche un ragioniere commercialista a entrare in politica. Sì, sì, sì, ma il fatto è, la cosa più strana che non capisco, qual è il meccanismo che scatta un dato momento a questa gente, auto blu su e giù, non ci saluta. Ma è logico, lei non se lo spiega, succederebbe anche a lei. Quando uno ha un luogo, ha un posto di potere, soprattutto ha un potere di scambio, ha sempre paura che qualcuno gli chieda un favore. Gli amici, i compagni di scuola, le ex fidanzate, i compagni di bar diventano pericolosissimi. Se questo mi chiede un favore, uno ha un plafond di marchette da fare limitato, mica se le può sparare con tutti gli amici. Quindi logicamente abbassa la barriera e se le centellina se le usa, ma fa parte dei meccanismi del potere. Chiunque ci passa per un attimo capisce che così. Gli amici sono i primi a farne le spese. Sarebbe così anche per lei, non potrebbe generosamente... Io avrei un grande desiderio. Ma lei ci passi, No, io sono tutto da un pezzo, mi dispiace tanto, ma... E allora non sarà mai un politico se è tutto da un pezzo. No, non è vero, mi piacerebbe entrare in politica e fare un po' come certi politici stanno facendo molto pochi. No, mi piacerebbe far, come si suol dire a Padova, tabacco un po' di gente. La cosa più brutta, sa qual è, Nicoletti? Che questi, da essere delle persone, tra parentesi, allora normali, sono diventati dei superuomini. Grandi barche, grandi cene, grandi festone. Sì, ma guardi, se lei si legge Catullo, legge le stesse cose, non è che questo sia una fattispecie data dai nostri tempi. Grazie, Roberto da Cagliari invece. Eccolo. Ma Nicoletti, scusi, mentre l'ascoltavo mi ricordavo... Cioè lei sta scatarrando o stava ridendo? Stavo ridendo. Ah no, sentivo come... Scattare in un'altra maniera. No, non ce lo faccia sentire, manca pochi istanti... Non ho capito. No, mancano pochi istanti alla sigla, chiudiamo felicemente. Io ti ho chiamato per dire di Scalfaro, che ieri, da Perfetto Democristiano, ha detto che Giulio Andreotti non voleva certo dire quello che tutti gli altri... Beh certo, giustamente, ha fatto il suo mestiere a dire questo. Che cosa doveva dire di diverso? Ma perché quelli sono i democristiani, quelli che negano l'evidenza, quelli che... Beh oddio, l'ha fatto gente prima e lo farà gente dopo. Prego? Lo ha fatto gente prima dei democristiani e lo farà gente dopo. Oggi considerare i democristiani come la scaturigine di ogni male è antistorico, perché è come parlare del passato. Mi perdoni, non sono d'accordo, perché questi che ci sono adesso, i cosiddetti forzisti, dicono le bugie, ma sono sicuri delle bugie che dicono. Ma le bugie le dicono tutti. Le mettono, cioè non è che dicono Nicoletti può dire questo, può dire quest'altro. No, Nicoletti è questo. E loro su questo punto... Guarda che lo dicono tutti, chiunque sta in politica deve sapere impugnare e usare con arte lo strumento della menzogna. La politica è fatta di questo, è fatta anche di una piacevolezza e una capacità di usare la menzogna come se fosse verità, di una sorta di gioco di specchi. Comunque, come vede, siamo ricaduti nell'ennesima rappresentazione del luogo comune, visto che la volontà, l'immaginifica scaturigine del sapere popolare non riesce a confezionare altro che luoghi comuni. Ringrazio Fabrizio Intonti e Valerio Rocchetti, ringrazio il meraviglioso Giuseppe Sansonna che è qui accanto a me, ringrazio la mia personale dottoressa che in questo momento è entrata nello studio per occuparsi della mia pressione che è molto alta. A domani. Alors tous deux on est parti dans le tourbillon de la vie, on a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.